cliente non ha accettato il testo, non ha apprezzato la componente ironica del messaggio e la povertà della proposta. Ho pertanto deciso di dare la missione sui numeri di emergenza ad un altro collega e sono costretto a rifiutare l'ultima fattura. Devo chiederti, uno, di essere più attento alle forme linguistiche, due, d'ora in poi dovrei essere attento a far comparire tutte le informazioni richieste dal cliente, tre, non essere creativo. La creatività non c'entra. Discoteca di provincia ad Ossuccio. Vediamo su Google Maps a cosa assomiglia. Ah, ecco, un capannone sulla strada del lago. Ecco una discoteca dove le curve della strada si prolungano in danze sinuose e dove il freddo paesaggio diventa hot. Non è febbre, è hot. Se la musica suda, i corpi vibrano. Se la musica suda, la notte è hot. Ingresso e prima consumazione offerta per le ragazze hot. Ad Ossuccio sulla strada statale 340, uscita Lungolago.